Chi è? No. Cosa ti fa male? Certo, tu ci dici che mi ha fatto di me. E da qui così. Quando c'è salute, tu se ne deve fregare. Quando sta bene. Andiamo. Dai. Oh. Sì. E ci andiamo male così la questione sì. Mi sei arrivato a me. Ma adesso è a te. Ah, è a te che da poco fa. Ah, me la fai da due giorni. Ma prima di andare su, manco un'anima all'entrata. C'era Antonello, c'era Luca, c'era Daniele Zaizzi. E c'ero io, stavo a parlare di contratto. Daniele ci ha aspettato in stava a te. Luca non si è più sentito, Antonello è sparito. Sono sparito tutti. È così la questione. Allora sono passati tutti e tre. Ma non è che si fa strada, ancora una ora, però comunque. Aspetto sul 23, ieri pezzi in cacciere, va. E vabbè. Comunque non si può. Ecco, quando non si può, non si può. Mi stanno facendo ascoltare quelli che sono il CMR. Cazzo, quelli che stanno facendo i vaccini. Comunque, ce l'hanno, stanno lavorando. Tanto cosa, il CMR non li può liberare. Antonella ha preso l'appuntamento col numero per farsi la faccia la bottura. Cazzo, io già mi ho rifatto il numero, ho rifatto tutto, quindi sto tranquillo. E lui ha preso l'appuntamento tramite il CMR, capito? Quelli lì che stavano chiacchierando tra di loro. Lui è entrato e ha preso l'appuntamento. Oh, ha fatto bene. Ma quando doveva andare? E non so, questo dove era adesso, ma doveva andare. Ma è strano che ha preso l'appuntamento tramite queste persone con l'apparecchio. Oh, quindi doveva andare. Infatti sto sempre il CMR, ci sto sempre, tutti i giorni ci sto. Perché fanno servizio con qualcosa lì? Fanno. Quindi, tanto ho cercato di volermi interrompere in meglio. Tu sei abusivo. Possiamo usare loro, possiamo usare anche loro, no? Sì, infatti. Proprio così. E ce lo usino. Non mi sta bene, e io non c'è, che voglio sempre, non so che sta segnando. Sono sempre al numero 7, numero 8, insomma. Mi chiama il numero 8. Aspetta che devo un po'. Ecco, ma che le ha detto questo, insomma? Devo dedicarli. Ma se rimanendo tutto, già devo rimanendo. Qualche canale sono su CMR e io stesso, ma chi sono? 8 dovrebbero essere, 8 canali. E Antonio gli ha segnato, Non me lo faccio un bacio, sto. Non sono stato. fare? No, io ho due limonette, vedete. Non ce l'ho portata di mano, ce l'ho conservato dentro nei documenti. Le cose. Ce l'hai le stelle, questo apparecchio? Sì, questo apparecchio c'ho le stelle. Oh, dove hai le stelle?